Intesa San Paolo, Official Global Banking Partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Turning now to that breaking news in the Eitan Peetz murder case. The judge declared a mistrial after jurors failed for the third time to reach a unanimous decision. 25 maggio 1979, un venerdì, Eitan Peetz, un bambino di 6 anni, esce da casa. È la prima volta che esce da casa da solo per andare a prendere l'autobus. Non è mai più tornato. Centinaia di agenti si sono dati da fare per cercarlo. New York è stata tappezzata da foto, annunci dei genitori disperati, mobilitazione di gruppi per la tutela dei bambini. Eitan non venne mai trovato. E cosa è successo? Che nel 2012, dopo che non ci fu un colpevole, non fu ritrovato il suo corpo, insomma era una storia misteriosa, Pedro Hernandez, 54 anni, è stato incriminato per l'uccisione del bambino. Un investigatore ha ricostruito il caso e è riuscito attraverso una serie di indizi ad arrivare a questo personaggio che è stato poi però assolto in tribunale, perché una persona, un'unica persona nella giuria, diceva: io non posso essere completamente sicuro che sia lui. E quello che sta succedendo è che probabilmente si riaprirà il caso. Ma perché vi racconto di Eitan Peetz, che è tornato nelle cronache newyorkesi, nelle cronache americane? Perché è stato proprio a suo nome che nel 1983 il presidente Ronald Reagan annunciò che il 25 maggio sarebbe diventato il National Missing Children Day, cioè la giornata in cui si ricordano i bambini che sono scomparsi, la giornata nazionale dei bambini scomparsi. Ogni 25 maggio i membri del Global Missing Children Network, GMCN, che è una rete lanciata nell'88, partecipa e organizza queste celebrazioni. Sono ormai 22 i paesi che fanno parte di questa rete e che condividono informazioni, immagini dei bambini scomparsi. Fra questi paesi c'è l'Italia. Il 25 maggio, lunedì, quindi fra 3 giorni, ci sarà questa celebrazione al Senato in Italia. Parteciperà anche uno dei grandi protettori dei bambini in Italia, Ernesto Caffo, il professor Ernesto Caffo, il fondatore del telefono azzurro, che è passato da New York ed è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Beh, dunque, che cosa avete concluso nelle vostre riunioni a New York? Qual è la situazione attuale per questi bambini che scompaiono? C'è un traffico di minori che fra l'altro è in crescita in tutto il mondo. Sono milioni di bambini che sono vittime di questa tratta nel mondo. Nei fenomeni migratori ci sono tanti bambini che sono oggetto di questo sfruttamento. D'altro, il Santo Padre su questo versante si è impegnato ampiamente per contrastare, anche come Vaticano, questo tipo di sfruttamento dei minori. In Europa abbiamo costruito un numero speciale, che è il 116.000, che è un numero che coinvolge tutti i paesi europei, per segnalare la scomparsa di un minore. E questa scomparsa può essere legata sia al traffico, ma anche alla sottrazione da parte di un genitore all'altro. E questo è un fenomeno molto comune anche oggi in Europa, soprattutto nelle coppie miste. E molte volte un genitore porta il bambino nel paese d'origine, dove non c'è ad esempio tanto dell'AIA operante, e quel bambino sparisce, scompare alla presenza dell'altro genitore. Ecco, lei mi ha dato un numero generico, milioni di bambini che scompaiono, ma parliamo ogni anno. Cosa succede? Come succede? Cosa succede, che ne so, in un paese emergente? I bambini vengono venduti addirittura ancora oggi dai genitori, non si sa che fine fanno. Ci racconti delle storie, perché io vorrei che i nostri ascoltatori fossero sensibilizzati su questa cosa, insomma, e avessero gli occhi aperti non soltanto per noi, dove magari alcune cose terribili, drammatiche non succedono, ma perché siano sensibilizzati magari all'idea della missione di aiutare. Ecco, ci racconti qualche episodio. Ci sono bambini che vengono portati in paesi ricchi attraverso dei mercati che li portano poi verso adozioni illegali, e questo è un percorso che d'altra parte coinvolge tutti i bambini che vengono dall'Asia, ma anche bambini oggi che vengono dall'Africa. Sarò provocatorio: non è possibile che magari alcuni di questi bambini, che avrebbero avuto una vita molto difficile, di stenti, magari sarebbero morti di malattie perché non c'era accesso a medicine, che magari è meglio per loro finire in un paese ricco, essere adottati da una famiglia che si occupa di loro e li fa crescere amorevolmente? Ci sono dei percorsi legali che possono essere adottati per permettere a molti bambini che vivono in situazioni di abbandono di poter trovare delle famiglie anche in paesi sviluppati in grado di poter dare una cura adeguata. Quello che succede in questi casi è la vendita. È la vendita di questi bambini che sono oggetto di sfruttamento sessuale, di sfruttamento nel lavoro. No, ecco, appunto, questa è un'altra storia, perché una cosa è essere adottati da una famiglia, ma io credo che il fenomeno più grave sia questo dello sfruttamento. Certo, diciamo che sono forme di sfruttamento che portano anche alla vendita dei bambini, ma senza magari il controllo delle famiglie che vengono assegnati. Ma com'è possibile che in un paese ricco improvvisamente qualcuno si compra un bambino magari per fini sessuali? Cioè, la gente se ne accorge, oppure lei crede che ci siano delle situazioni in cui ci sono dei bambini che sono in uno stato di schiavitù? Questo mi sta dicendo? Sicuramente ci sono delle situazioni nelle quali non c'è un controllo sociale tale da permettere a questi bambini di essere tutelati e accompagnati nel loro arrivo nei nostri paesi. Purtroppo devo dire, questo fenomeno che prima era marginale oggi sta diventando importante anche in paesi che apparentemente hanno tutti gli strumenti, ma anche nel nostro paese, in Italia, anche rispetto all'Europa, che erano paesi e sono paesi che per molto tempo avevano i diritti per l'infanzia maggiormente sviluppati anche sul piano formale. Oggi devo dire, su questo versante sono delle forti falle e ci sono tanti minori che arrivano nel nostro paese o arrivano in Europa e non hanno nessuna tutela, spariscono, scompaiono e nessuno sa nulla di loro. Ecco, cosa si può fare per cercare di combattere, non dico debellare perché sarà difficile, ma per combattere questo problema nel contesto delle Nazioni Unite? L'America, per esempio, in che stato è? Soffre di questo problema come altri paesi? Ma sicuramente gli Stati Uniti sono stati il paese che ha affrontato per primo questo tema della scomparsa dei minori con National Center for Missing and Exploited Children. ICMEC rappresenta una risposta importante. Noi lavoriamo con i grandi organismi internazionali, con i grandi paesi, soprattutto con paesi europei, paesi asiatici, per trovare leggi e sistemi di tutela, sia lavorando con le polizie, sia lavorando con la magistratura e anche costruendo, se vogliamo, dei sistemi di aiuto alle vittime, perché il problema del traffico si tratta anche di affrontare in termini di aiuto chi ne è vittima, oltre a contrastare in tutti i modi il mercato, quindi con forti pene per chi usa i bambini come strumento oggetto di vendita. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di bambini sfortunati, di bambini abbandonati, e vorrei proporvi una canzone che invece racconta di bambini che purtroppo hanno perso la madre, si ritrovano da soli, il padre cerca una governante, la trova, la governante dei sogni, conquista questo stuolo di bambini, grande musica, grande canzoni, in inglese The Sound of Music, in italiano Tutti insieme appassionatamente, l'attrice Julie Andrews, e la canzone che vi propongo è quando lei organizza tutti questi ragazzini che si mettono in coro per salutare il padre che sta partendo, canzone commovente che lui certamente non si aspettava. So long, farewell. So long, farewell, our readers and good night. I hate to go and leave this pretty sight. So long, farewell, our readers say adieu. Adieu, adieu, to you and you and you. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.